24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Sono le 8, 18 minuti e 47 secondi e inizia la terza parte di 24 Mattino di questo giovedì 23 luglio. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo buongiorno a Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria. Buongiorno, buongiorno Simone, ormai ci avviciniamo alla conclusione di questa cavalcata, domani sarà l'ultimo giorno e parliamo di vacanze ovviamente anche, no? Perché ce le prenderemo tutti e due. Vacanze, treni. Ai treni dedica un'amplissima pagina Le Figaro per il consueto incontro con tutto il mondo e paese. Perché? Perché i treni francesi, l'azienda francese che è al 100% di proprietà dello Stato, è in grandissima crisi. Il Covid ha portato un colpo terribile, dice il Figaro, all'azienda, che perde 4 miliardi di euro e dai 25 milioni di passeggeri dell'anno scorso è scesa a 20 milioni proprio per il Covid. Quindi che cosa farà lo Stato francese? Ebbene, lo Stato francese rimpolpa, cioè interviene con un massiccio aiuto alle Ferrovie dello Stato, sostenuto un po' da tutti gli esponenti, diciamo, del governo, e dopo i 7 miliardi che il governo francese ha dato a Air France ci saranno adesso i miliardi, non si sa quanti, il ministro dei trasporti parla di più miliardi, parecchi miliardi, sì, per il settore ferroviario. Maria, è evidente, Maria. Sì? No, dico, mi viene in mente, te lo ricordi Andreotti, la celebre battuta di Andreotti: ci sono pazzi che credono di essere Napoleone e pazzi che credono di poter risanare le ferrovie. In realtà in Italia le abbiamo risanate alla fine, però, in Francia non è così, evidentemente. Le abbiamo anche diciamo privatizzate, no? Ma in Francia si rendono conto che stanno messi davvero male, e quindi questi parecchi miliardi che, dopo gli aiuti che sono arrivati a Air France, 7 miliardi, mica poca roba gli hanno dato Air France, adesso arriveranno gli aiuti per le ferrovie dello Stato. Devo dirti che per la rubrica Tutto il mondo è paese, anche questa settimana la Gran Bretagna si fa notare. Perché? Perché tra poco parleremo di Covid e in Gran Bretagna la grande, diciamo, polemica, ne parla il Guardian in prima mattina, è che il sistema di tracciamento, che secondo il governo avrebbe dovuto fare sì che tutti sapessero se erano entrati in contatto con dei contagiati, ebbene, è sostanzialmente irrilevante, soprattutto nelle aree con il più alto tasso di infezione. Per esempio a Luton, una cittadina non lontana da Londra, dove c'è tra l'altro anche un aeroporto, Luton, che è una delle città col più alto tasso di infezione, soltanto il 47% delle persone a rischio sono state tracciate e testate. Il test and trace, che secondo lo stesso governo britannico invece funziona se c'è almeno l'80% delle persone tracciate. Quindi c'è un problema di controllo del contagio ancora e tuttora molto evidente in Gran Bretagna, talché appunto il Guardian dedica l'intera apertura a proprio questo e parla di fallimento di questa allerta. Vedremo come andranno le cose in Gran Bretagna e anche come andranno in Italia, dove immuni, lo abbiamo appreso, l'hanno scaricata solamente 4,8 milioni di persone. È fallito il tentativo di test sierologici a tappeto, e come ci raccontava il Sole 24 l'altro giorno, anche i tracciatori umani non sono abbastanza, o almeno non lo sono in tutte le regioni. Molto... è interessante proprio questa la differenza, perché in Gran Bretagna i tracciatori umani, come dice appunto il Guardian, sono stati un fallimento. In Germania invece la loro app l'hanno scaricata in gran numero ed è uno dei sistemi più efficaci. Cioè i tedeschi si sono fidati di quello che gli ha detto il loro governo e hanno scaricato l'app. Da noi c'è un po' meno. Parleremo molto di Covid oggi, più avanti avremo ospite il ministro della Salute, Roberto Speranza, ma innanzitutto vogliamo parlare di vaccino e quindi gettare un occhio al futuro, sperabilmente prossimo, e vedere quando troveremo appunto la possibilità di tornare alla normalità definitivamente dopo Covid-19. Massimo Scaccabarozzi è presidente di Farmindustria, l'associazione di Confindustria delle aziende dell'industria farmaceutica. Buongiorno Scaccabarozzi, benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Maria, prego. Buongiorno. Allora, le notizie sono incoraggianti, lo dico guardando alla produzione su larga scala che è notizia di ieri. Il governo statunitense ha chiesto all'azienda farmaceutica Pfizer una produzione e la consegna a livello nazionale di 100 milioni di dosi di un vaccino appunto contro il coronavirus. Al di là degli annunci dei vari stati, ci sono in corso da tempo la preparazione di un vaccino europeo con un accordo anche con un'azienda basata in Italia. Ma al di là di tutte queste di questi annunci, lei che previsione fa? Perché i tempi di test per un vaccino sono normalmente lunghi, quindi quando potremmo disporre in Europa di un vaccino credibile? Beh, allora, guardi, si stanno facendo passi avanti come non se ne erano mai fatti prima. Certo che la ricerca, come ben detto lei, ha i suoi tempi e soprattutto i risultati della ricerca non sono mai certi fin dall'inizio, per cui bisognerà attendere per capire se tutti i candidati vaccini che sono allo studio arriveranno fino in fondo. Noi stiamo facendo il massimo fin da subito, è importante dire. Quando dico queste cose non parlo solo dell'industria italiana, ma della ricerca che sta coinvolgendo anche l'Italia, perché ormai l'innovazione e la ricerca sono processi globali. La ricerca è partita a gennaio, subito, perché è stata messa a disposizione della comunità scientifica mondiale la sequenza virale e quindi i ricercatori stanno lavorando in parallelo nelle fasi di sviluppo. Le aziende stanno cercando di espandere la propria capacità produttiva assumendosi già il rischio di produrre vaccini di cui non sappiamo ancora il risultato finale, e questo ci ha aiutato perché abbiamo una conoscenza importante su vaccini come quello per Zika e Ebola, e c'è una collaborazione stretta con la comunità scientifica e con le autorità sanitarie. Perché vi dico tutto questo? Perché questa collaborazione e tutto questo piano ha fatto sì che si accelerassero tutte le procedure il più possibile, sempre garantendo che alla fine il prodotto che arriverà sarà un prodotto di elevatissima qualità, tollerabile ed efficace. I tempi, si è parlato sempre di 12-18 mesi dall'inizio della pandemia. Ecco, la cosa importante è che oggi, e vi do il dato IMS aggiornato a due giorni fa, ci sono ben 166 vaccini in fase di sviluppo, 24 sono già in sperimentazione clinica e 5 nell'ultima fase di ricerca. Quindi siamo ottimisti, ecco, io non credo che ne arriveranno un centinaio, l'importante è che ne arrivino un paio, tre, ecco, perché dopo quello che sarà importante e garantire la disponibilità del vaccino per tutti. Il racconto che ci ha fatto Scaccabarozzi è affascinante perché mi dà l'idea che si fissi anche un nuovo standard di ricerca. O è il caso Covid che ci spinge a questo e quindi basta, cioè finito l'episodio, finisce così? Ma io spero di no, ecco, io spero che abbiamo imparato qualche cosa. Io ho visto in questo periodo una collaborazione soprattutto tra industrie e autorità sanitarie che non si era mai vista prima, ovviamente nel rispetto dei ruoli, nella trasparenza, si sono velocizzate, si sono fatte cose sburocraticizzando il sistema come non si era mai fatto prima. Ecco, io l'ho detto, mi piace molto una frase che ha detto una persona molto più importante di me, che è il Papa. Lui ha detto: la cosa più importante, il peccato più grande di questa pandemia sarebbe quello di sprecarla. Ecco, io credo che abbiamo imparato a fare tante cose e se riusciamo a mantenere questo livello, credo che anche per la ricerca sarà una fase nuova, una fase importante, una fase accelerata, perché non ci dimentichiamo mai che alla fine di un processo di ricerca c'è sempre qualcuno che sta aspettando, e questo che sta aspettando è il malato a cui dobbiamo dare delle risposte. Certo, infatti il malato al quale dobbiamo dare delle risposte è, lei dice ovviamente i mesi, i tempi sono quelli che sono, non è che si possano accelerare. Tuttavia, sì, si possono comprimere ma non più di tanto. Non si possono accelerare per mettere in commercio un vaccino che non sia testato. E tuttavia, quello che a noi, come dire, sembra urgente, no? È un tempo, perché intanto le chiedo se una nuova ondata ci sarà, e sembra, così dicono gli esperti, accertato che ci sarà, ma che sarà molto meno violenta. Se mancherà un vaccino a ottobre, a novembre, e l'ondata del virus sarà meno violenta, che tipo di misure si potranno scegliere? Cioè, esiste già una serie di farmaci, no, che possono ridimensionare l'impatto del Covid nella nuova ondata? Ma allora, io non sono un virologo, non sono un immunologo, non sono un esperto da questo punto di vista, per cui anch'io mi fido della comunità scientifica, come dobbiamo fare tutti, e mi auguro che intanto non ci sia, o se come qualcuno dice ci sarà, speriamo sia meno violenta. Per noi le sfide sono importanti, perché ci sono aziende che stanno già cominciando a produrre il vaccino, anche se non abbiamo i risultati certi della ricerca, perché non vorremmo, se poi il vaccino arriva in fondo, trovarci spiazzati dal fatto che non ne abbiamo a disposizione, tenendo conto che i tempi di produzione di un vaccino non sono i tempi di produzione di una compressa. Seppur una compressa debba garantire tutti i requisiti nella produzione di sicurezza e di qualità, si può fare in un giorno, i vaccini ci vogliono mesi, quindi ci si è assunti questo tipo di rischio perché non si vuole lasciare indietro nessuno, e di conseguenza per il resto io credo che si sia imparato molto utilizzando alcuni farmaci che però non sono i farmaci anti-Covid, sono dei farmaci che riescono in qualche modo, grazie anche qui a un lavoro eccellente che è stato fatto dalle autorità scientifiche, in modo particolare l'AIFA, con degli studi clinici ad hoc mirati sulle proposte che venivano dalla comunità dei medici, di farmaci che possano aiutare il paziente a reagire meglio. Devo dire che da questo punto di vista le cose sono andate bene, perché oggi abbiamo delle conoscenze che un anno fa non avevamo. Poi c'è una ricerca specifica anche su prodotti antivirali, ce n'è uno in particolare che promette molto bene, che è ancora in una fase finale di ricerca, e anche questo, almeno sui pazienti gravi, ha dimostrato di essere in qualche modo efficace nell'aiutarli a venire fuori prima dalla malattia. Però ecco, ripeto, quella cosa più importante è che abbiamo imparato tanto, e c'è stata una grande collaborazione. Mi auguro che se, come dicono i virologi, se dovesse ripresentare, ecco, saremo tutti più preparati nell'attesa che il vaccino arrivi. Anche da questo punto di vista, io dico, le autorità stanno lavorando bene, perché il ministro Speranza si è fatto portavoce all'interno dell'Europa, ha lanciato l'alleanza per i vaccini, sì, coinvolgendo quattro paesi come Francia, Germania e Olanda, e insieme stanno già cominciando a lavorare con un primo candidato che tra l'altro, sì, vede l'Italia coinvolta, ma stanno incontrando tutte le aziende, perché la volontà è quella di non lasciare indietro nessuno in Europa, sì, e fare sì che il vaccino sia disponibile per tutti. E questa è anche con la volontà. Sì. Un attimo solo, Maria, vaccino, Maria, con l'Olanda, Maria, sul vaccino, Maria, abbiamo fatto. No, ma volevo solo commentare. Sì, sull'Olanda, no, il vaccino ci mette d'accordo. Sì. Abbiamo l'idea completa sui soldi. Fermatevi un attimo. Una questione è semplicemente una questione di tempi, non è una questione di togliere spazio. Ci prendiamo una pausa, un secondo, resti con noi, Scaccabarozzi, perché poi vogliamo entrare proprio su questo tema dei singoli paesi e di come si stanno comportando, e anche delle questioni geopolitiche che sono dietro al vaccino, i maxi acquisti degli Stati Uniti, le ipotesi di maxi acquisto della Gran Bretagna, le opzioni sui vaccini e chi rischia di rimanere scoperto. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Ed eccoci di nuovo, quindi ancora a parlare di vaccino, poi tra poco, come vi dicevo, avremo ospite il ministro della salute, Roberto Speranza, intanto con Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, l'associazione delle industrie farmaceutiche. Stiamo cercando di fare un punto, ed è un punto anche, come si diceva, geopolitico, cioè di cosa si muove intorno al vaccino, di quali giochi di potere si stanno muovendo intorno al vaccino da Covid-19, visto che di pandemia si parla e di qualcosa di globale si parla. Che rischi ci sono, Scaccabarozzi, a vedere come stanno andando le cose oggi, come i grandi paesi stanno prendendo accordi con le case farmaceutiche che larghe fette di popolazione mondiale restino escluse? Ma i rischi secondo me non ci sono, perché ci si sta muovendo bene. Ovviamente, qui lo dico, è interesse di tutte le aziende farmaceutiche far sì che il vaccino ci sia per tutti e non solo per pochi. E devo dire che quello che sarà importante è la programmazione. La programmazione, vediamo, sta avvenendo a livello di vari paesi. Spesso quando un paese o una grande nazione si muove, si pensa che lo voglia fare in totale autonomia per cercare di arrivare prima degli altri. In realtà non è così, anche perché, come vi dicevo prima, i processi di ricerca e di innovazione non sono più processi solo locali, sono processi globali, e così lo sono anche i processi di produzione. E devo dire che è una bella cosa positiva, stavo cercando di dirlo prima, quello che ha fatto il ministro Speranza lanciando quell'alleanza per vaccini in Europa, mettendo insieme ovviamente Germania, Francia e Olanda. Perché? Perché la Germania, come sapete, ha la leadership in Europa in questo momento, e quindi è importante la collaborazione col ministro della salute tedesco. In Olanda ci sono dei grossi centri di produzione vaccini, e tutto questo è positivo perché hanno già cominciato a lavorare con un primo candidato che tra l'altro vede pure l'Italia coinvolta nelle fasi di ricerca e di sviluppo, e stanno incontrando tutte le altre aziende, quindi hanno già chiuso perché tutta l'Europa possa avere centinaia di milioni di dosi, poi dopo saranno ripartite sul base alle necessità dei vari paesi, ma credo che proprio la volontà sia quella di non lasciare indietro nessuno, soprattutto i paesi in via di sviluppo, e quindi queste quattro persone cercheranno di lavorare per tutta l'Europa. Devo dire che poi, per quanto riguarda quello che dicevo prima, lo sviluppo di un vaccino è ormai un processo globale e vede tutti i paesi coinvolti nella ricerca. Pensiamo che l'Italia è coinvolta in 3 vaccini nella fase di sviluppo, ma addirittura anche nella fase di produzione, perché ci sono aziende che non sono magari a capitale italiano, che però faranno parte della produzione in Italia. Lo ha annunciato proprio il ministro la scorsa settimana visitando un'azienda di Anagni che farà una parte della produzione di 2 vaccini molto importanti che sono già molto avanti nella ricerca. Quindi si sta facendo di tutto, e credo che lo stiano facendo bene, per far sì che il vaccino non manchi a nessuno. Da parte dell'industria poi ci sarà anche qui, credo, una coalizione, perché se arrivassero anche più di un vaccino, milioni e centinaia di milioni di dosi, voglio dire miliardi di dosi, possano essere a disposizione della comunità mondiale. Grazie a Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. Buona giornata. Buona giornata a voi. Buona giornata. Grazie per essere stato con noi. Roberto Speranza, ministro della Salute. Eccoci, buongiorno, bentornato. Buongiorno a tutti voi. Maria, prego. Buongiorno, ministro. Lei teme una nuova ondata a settembre-ottobre, e come ho chiesto prima anche al presidente Scaccabarozzi, noi saremo più preparati a questa seconda ondata sia sotto il profilo farmacologico che sotto il profilo dell'identificazione dei focolai? Come ci si comporterà? Poniamo che in un condominio ci siano alcune famiglie contagiate, che cosa si predisporrà? Un isolamento del condominio? Giusto per prepararci. Questi mesi difficili che abbiamo trascorso, in cui le istituzioni, i cittadini hanno imparato a combattere il coronavirus, ci hanno insegnato tante cose, tra queste la necessità di essere molto determinati. Noi possiamo provare a contenere anche un'eventuale seconda ondata se sapremo essere veloci, determinati nell'isolare i casi, nell'individuare cluster, focolai, e contenerli immediatamente. Per cui è evidente che non possiamo avere certezze su quello che avverrà tra settembre e ottobre. La seconda ondata è avvenuta in alcuni paesi del mondo, è avvenuta in passato rispetto ad altre epidemie, non è certa, ma dobbiamo considerarla come possibile, e in quanto possibile è chiaro che dobbiamo tenerci pronti, quindi stiamo continuando ad investire risorse molto importanti sul Servizio Sanitario Nazionale, i nostri operatori sanitari, medici, infermieri, professionisti hanno imparato meglio in questi mesi come si affronta sul piano clinico il virus, io penso che il nostro paese oggi sia oggettivamente più forte di quanto fosse nel mese di febbraio, in primis perché conosce meglio l'avversario con cui si confronta, e non dimentichiamolo mai, nel mondo questo virus si è palesato la prima volta alla fine del 2019 in Cina, in Europa, in Occidente per la prima volta l'abbiamo incrociato a febbraio, alla fine di febbraio, è chiaro che un virus nuovo richiedeva conoscenze nuove che abbiamo acquisito e che stiamo acquisendo solo sul campo, però la determinazione, la velocità di intervento è un fattore essenziale. Quando c'è un focolaio dobbiamo immediatamente intervenire, essere pronti, isolare i casi positivi e provare a contenere quindi l'avanzata del contagio. A questo proposito, Ministro, ha l'impressione che gli italiani stiano cedendo un po' in termini di attenzione? Abbiamo visto dei casi nei giorni scorsi, abbiamo visto la preoccupazione di Lazio e Campania che stanno pensando di reimporre l'utilizzo di mascherine nei luoghi pubblici. Abbiamo visto casi come quello del ristorante sushi che ha portato a 1500 persone che in questo momento sono in isolamento. Insomma, un po' forse abbiamo ceduto, che dice? Guardi, prima di tutto mi permetta di dire che in questi mesi gli italiani sono stati davvero straordinari. Noi siamo ancora non in porto sicuro, ma siamo usciti dalla fase di tempesta, dalla fase più difficile, e questo è avvenuto soprattutto grazie al comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone. Quindi questo va riconosciuto nella maniera più assoluta. E dopodiché ora sono rimaste sostanzialmente tre grandi regole fondamentali. Noi dal 4 maggio abbiamo iniziato un percorso di graduale riapertura da lockdown, oggi sono rimaste in piedi tre regole essenziali. La prima, l'utilizzo delle mascherine, la seconda è il distanziamento di almeno un metro ed evitare gli assembramenti, la terza il lavaggio frequente delle mani. Ecco, queste tre regole sono ancora essenziali. Sono tre regole che devono accompagnarsi ancora per le prossime settimane fino a quando non avremo sconfitto definitivamente il virus. Io capisco che anche dentro queste tre regole ci sia un pezzo di sacrificio, però dobbiamo continuare a farlo perché ne va della nostra capacità di anche ripartire, di provare diciamo a tornare a una fase diversa rispetto a quella dei mesi passati. Ma è preoccupato da questi cedimenti che si vedono, Ministro, oppure no? Ma io perché capisco che dopo tanti mesi c'è una difficoltà, però queste tre regole vanno rispettate, è giusto, io come Ministro della Salute non posso che essere preoccupato ogni volta che vedo queste tre regole non rispettate. Quando c'è un assembramento c'è un pericolo, c'è un rischio. Quando però c'è una è vero che quando si sta all'aperto, quando si sta all'aperto, Ministro, è vero che il rischio di contagio è molto più basso su una spiaggia. Per esempio, se le persone si assembrano, il rischio di contagio è pari o simile a quello che c'è in un luogo chiuso o no? Ma è chiaro che nei luoghi chiusi questo pericolo è sempre maggiore, tant'è che l'obbligo di mascherine è vigente nel nostro paese nei luoghi chiusi aperti al pubblico. Dopodiché anche all'aperto bisogna evitare assembramenti. Gli assembramenti sono ancora vietati nel nostro paese anche all'aperto. È chiaro che all'aperto ci sono condizioni di maggiore facilità, è più facile rispettare la distanza di un metro in uno spazio aperto che non in una stanza chiusa o in un autobus o in un vagone della metropolitana. Però io credo che queste regole, ecco, che poi sono regole tutto sommato gestibili, cioè si possono tenere queste regole e provare a condurre una vita che sia la più vicina possibile a quella precedente al lockdown. Sono tre regole che, lo ribadisco, i cittadini devono aiutarci a far rispettare e devono rispettare il più possibile, perché sono le tre chiavi per gestire questa fase di transizione, che ci auguriamo sia la più breve possibile, e ci auguriamo che poi una volta che avremo un vaccino potremo superare chiaramente anche queste regole qui, però fino ad allora è fondamentale rispettarle. Io do un giudizio molto positivo di come gli italiani hanno retto in questi mesi, dobbiamo riconoscerlo, sarebbe sbagliato immaginare caccia alle streghe o altro. È chiaro che in questa fase dobbiamo conservare queste tre regole, non c'è più il divieto di uscire di casa, non c'è più il divieto di spostarsi da un comune all'altro, da una regione all'altro, si torna al lavoro, quasi tutti stanno tornando alle loro ordinarie attività, però queste tre regole conserviamole perché sono le tre chiavi per provare a vincere ancora la sfida. Ministro, sarà prorogato al 31 ottobre lo stato di emergenza? questa è una valutazione che abbiamo deciso proprio ieri sera in Consiglio dei Ministri di fare solo dopo un ulteriore confronto con il Parlamento, perché il Parlamento per noi è evidentemente la fonte, insomma, della forza del governo attraverso un rapporto di fiducia, ed è giusto, il Presidente del Consiglio lo ha ribadito ieri, che ci sia un ulteriore passaggio in Parlamento di confronto e poi si assuma una decisione finale. Però l'orientamento del governo è che sia necessaria questa proroga fino al 31 ottobre? L'orientamento del governo è che non siamo fuori, diciamo, non siamo fuori da questa vicenda, stiamo molto meglio di prima, non siamo più nella tempesta di marzo, ma ancora c'è bisogno di tenere tutta una serie di norme, di regole, di elementi, insomma, di sicurezza che sono connessi a questa stagione comunque straordinaria. Ma sarà indispensabile il confronto parlamentare per decidere. Lei è dell'opinione che per la sanità i soldi del MES siano indispensabili perché arriverebbero subito e potrebbero consentire di utilizzare altre risorse ad altri fini? Vorremmo una risposta chiara. Da Ministro della Salute, come lo considera? Da Ministro della Salute io lavoro costantemente per portare più risorse al Servizio Sanitario Nazionale. Mi permetta di dire soltanto che negli ultimi 5 mesi abbiamo investito sul Servizio Sanitario Nazionale più risorse che negli ultimi 5 anni, iniziando già con la legge di bilancio, quindi prima dell'esperienza Covid. Oggi io spingo perché tutte le risorse possibili arrivino al Servizio Sanitario Nazionale, che ha bisogno chiaramente di vedere chiusa in maniera definitiva la stagione dei tralli e di riaprire una grande stagione di investimenti. Quindi sì al MES? Le risorse del MES sono delle risorse che arrivano a un tasso di interesse molto basso, sono risorse assolutamente significative, quindi io sto già lavorando ad un piano esecutivo, cioè a quale può essere l'idea di come spendere queste risorse. Anche in questo caso chiaramente andrà fatta una discussione di maggioranza e in Parlamento. Quello che non può avvenire è che queste risorse non arrivino, nel senso che a me va benissimo se le risorse sono quelle del MES. Dovesse il Parlamento italiano decidere che non è giusto prendere queste risorse, significherà che dovremo prendere le stesse risorse anziché dal MES, dal Recovery Fund. Io mi interessa relativamente qual è la fonte di accesso. La cosa che mi interessa in maniera prioritaria è che queste risorse arrivino. Poi se sarà il Recovery Fund, sarà il MES, viene persino un attimo dopo. Io penso che non ci deve essere nessun pregiudizio su nessuno strumento, quindi da parte mia le risorse del MES vanno bene, il Parlamento dovrà decidere, perché siamo una democrazia, quindi è giusto che ci sia lì una valutazione definitiva. Quello che non può avvenire, contro cui io mi batterò, è l'idea che a un certo punto le risorse alla salute non arrivino. Questo non è sostenibile, questo non è ammissibile. Perché questa lezione che ci ha dato il coronavirus ci dice che c'è bisogno di un nuovo investimento straordinario sul Servizio Sanitario Nazionale, e io penso che se non ora quando, cioè se non è questo il momento del più grande investimento della storia repubblicana sul Servizio Sanitario Nazionale, non so quando è che lo dovremo fare, quindi questo è il momento giusto. Quindi opziona, Ministro, 36 miliardi del Recovery Fund. Sulla cifra discuteremo. Io sto lavorando a un grande piano su alcuni assi fondamentali. Di che portata innanzitutto in termini di risorse questo piano, Ministro? Ma io credo che serva una cifra dai 20 miliardi in su, se vogliamo fare un'operazione vera, copernicana, di cambio reale, profondo, sul nostro Servizio Sanitario Nazionale. Gli ambiti sono vari, noi abbiamo bisogno di un grande investimento sulla sanità digitale, tema su cui l'Italia è, ahimè, in ritardo. Abbiamo bisogno di un grande investimento sulla sanità del territorio, sui nostri presidi ospedalieri. C'è un tema enorme, per esempio, che riguarda la nostra capacità come paese di attrarre gli straordinari investimenti che ci sono a livello globale sull'industria farmaceutica. C'è un grande tema di relazione tra sanità e ambiente. Cioè, io penso che noi dobbiamo lavorare a un grande piano di rilancio del nostro Servizio Sanitario Nazionale, della nostra sanità pubblica. Quali risorse usare? A me va bene il MES, va bene il Recovery Fund, vanno bene i soldi dello Stato presi, diciamo, con le nostre aste ordinarie. Quello che non può accadere è che le risorse non arrivino. Io penso che se c'è una stagione in cui arrivano nuove risorse, il Servizio Sanitario Nazionale deve essere il primo capitolo da finanziare, perché questa stagione ci dà questa lezione di fondo. Noi abbiamo un grande Servizio Sanitario Nazionale che ha retto anche in questa prova molto difficile, ma è un Servizio Sanitario Nazionale che viene da una stagione di tagli, una stagione lunga, dentro una fase in cui l'austerità, il rigore, i tagli alla spesa pubblica erano in qualche modo la regola, noi abbiamo sottratto risorse al nostro Servizio Sanitario Nazionale. Oggi abbiamo bisogno di una nuova fase espansiva. Serve un grande piano di sviluppo. Dal mio punto di vista usiamo tutti gli strumenti possibili in campo. Io non ho pregiudizi sul MES, non ho pregiudizi sul Recovery Fund, non ho pregiudizi sul bilancio dello Stato. L'importante è che le risorse arrivino, perché ce ne l'importante è che arrivino i soldi. Senta Ministro, sono tanti gli studi internazionali, ne ha parlato anche l'Economist di recente, secondo i quali la chiusura prolungata delle scuole costituisce un danno psicologico ed economico per i paesi, psicologico per la formazione dei ragazzi, economico perché lasceremo nell'ignoranza o comunque in una scarsa preparazione generazioni di studenti. Lei ritiene che a settembre le scuole italiane riapriranno con certezza? Ce l'abbiamo il ministro o l'abbiamo perso? Che cosa è successo? Sulla scuola abbiamo sulla perso. Sulla scuola è questa. Pronto, no, eccomi. No, eccolo. Okay. Allora, io sono convinto che le scuole riapriranno e riapriranno tutte. Il lavoro di queste ore è volto a farle riaprire in piena sicurezza, perché il punto non è solo riaprire per me, è anche riaprire in piena sicurezza. La scelta di chiudere le scuole è stata, ahimè, una scelta necessaria, ma la più dolorosa tra le scelte fatte. Per quanto mi riguarda, io ho firmato tutti gli atti in questi mesi, le ordinanze di PCM, questa è stata, per quanto mi riguarda, la scelta più dolorosa, quella di chiudere le scuole. Ma attorno alle scuole girano 10 milioni di persone. E in quel momento il nostro paese non poteva consentirsi una mole così significativa di persone in movimento. Oggi l'obiettivo straordinario del governo è riaprire tutte le scuole alla metà di settembre e riaprirle in piena sicurezza. Per farlo io sto anche lavorando a ripristinare un rapporto più organico, più strutturato tra Servizio Sanitario Nazionale e scuole. Questo esisteva, c'era una norma del 1961 che prevedeva la cosiddetta medicina scolastica. Poi negli anni 90 questa cosa è sparita, anche in questo caso nella stagione dei tagli si è perso. Penso che dobbiamo ricostruire. Riapriranno le infermerie nelle scuole, ministro, riapriranno le infermerie nelle scuole come c'erano un tempo? Questa è una visione, diciamo, abbastanza parziale. Quello che è certo è che noi non possiamo scaricare solo sulle spalle di presidi, insegnanti, del personale scolastico una vicenda che è di natura sanitaria. Quindi io sto lavorando per costruire questo rapporto organico. Faremo test sul personale che lavora nelle scuole prima dell'inizio delle scuole e poi avremo una fase di campionamento, di verifica e di monitoraggio molto costante. Scuola e sanità devono affrontare insieme questa sfida della riapertura, ma quello che voglio dire in maniera molto chiara e molto netta è che alla metà di febbraio le scuole italiane riapriranno e stiamo lavorando. Voleva dire settembre, ha detto febbraio, no, il ministro la fermo perché per carità, prego. Assolutamente, alla metà di settembre le scuole riapriranno e lavoriamo perché riaprano nella massima sicurezza. Maria, abbiamo spazio per un'ultima domanda, vai. No, io volevo soltanto precisare, prima di tornare alla Speranza, al nostro ascoltatore che dice, a proposito delle cifre che ho dato sulle Ferrovie dello Stato, che non c'era certezza. Cito letteralmente Le Figaro, quest'estate l'operatore ferroviario si riferiva ai 20 milioni di passeggeri che ci saranno quest'estate contro i 25 milioni che c'erano abitualmente. Questo dalle Figaro. Senta Ministro, invece tornando a noi, ma lei in vacanza ci va? Ma io non ho ancora programmato nulla, ma spero anche io di potermi fermare qualche ora. Una settimanella, una cosa così. Spero proprio di sì. Ancora non abbiamo chiaro il quadro dei lavori parlamentari ed è evidente che per noi che ci occupiamo chiaramente della questione salute in questa fase ci sarà bisogno ancora di un monitoraggio quotidiano, ora per ora, giorno per giorno, quindi non sarà facile. Mi piacerebbe tanto poter andare qualche giorno a mare nella mia Basilicata, ecco, questo è il mio desiderio. Vedremo un po', grazie Roberto Speranza, ministro della salute. Con la mascherina, ministro. Certo, ovviamente. Ovviamente. Grazie ministro, buona giornata. Buona giornata. Cara Maria, ci risentiamo domani alle 8:20. A domani. Ultima puntata GR24. Ci risentiamo invece con gli ascoltatori domani mattina alle 6:30. Ciao.